vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 10 ottobre, il sole in regione sorto alle 7.17, tramonterà alle 18.31. La luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino. Fare agricoltura senza l'utilizzo del suolo fino a qualche tempo fa sembrava una contraddizione in termini. Non lo è più. Oggi nel servizio di apertura parleremo della Zero Vertical Farms, iniziativa pordenonese che compie già 3 anni. A seguire per la rubrica del bio un approfondimento su quello che dovrebbe essere un rapporto ideale fra frumento e panificatori. E per quella dell'università proponiamo un'intervista al professore Eddy Piacentier, neodirettore del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali della Ateneo di Udine. Scendiamo in cantina per parlare della pressatura, che dopo la pigiatura è il secondo momento strategico della vinificazione. Cosa fare in orto nel mese di ottobre è l'argomento che precede lo spazio della gastronomia, che oggi si occupa di trippe. Andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo per la settimana entrante, il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Coltivare in maniera sostenibile e allo stesso tempo intensiva non è fantascienza, a Pordenone è già realtà. È l'esperienza di un'azienda innovativa nata 3 anni fa con l'intento di rivoluzionare il mondo dell'agricoltura. Stiamo parlando della Zero Vertical Farms, che utilizza sistemi altamente tecnologici di coltivazione aeroponica, cioè senza suolo. Lorenzo Gerlinzoni ne ha parlato con Daniele Modesto, amministratore delegato di Zero. Noi ci occupiamo di realizzare Vertical Farm, che sono l'espressione più tecnologica che l'agricoltura oggi può immaginare. Trasportiamo quello che succede in un campo, in un contesto chiuso, dove riusciamo a replicare le condizioni di coltivazione che ci interessa proporre per una particolare pianta. Di conseguenza possiamo in qualche modo costruire delle camere di coltivazione che sono indipendenti dal luogo, dallo spazio, dal tempo atmosferico e avere sempre dei risultati che non sono naturali, anzi che ripropongono il meglio che la natura può proporre in maniera però sistematica e molto prevedibile. C'è molta tecnologia, ci sono molti computer, ci sono molti ritrovati ingegneristici, però lo facciamo per riproporre per la pianta le condizioni migliori possibili. Noi parliamo di alberghi a 5 stelle per le nostre piante perché cerchiamo di mettere nelle condizioni di esprimere il meglio del loro potenziale e con questo, se vuole, recuperiamo anche sapori antichi. Tutto meno che innaturale quello che produciamo, perché mettiamo la pianta nelle condizioni di dare il meglio che la natura le permette e che la natura ha scritto nel suo DNA. Una delle vostre caratteristiche è la sostenibilità. In questi impianti si esprime con un massiccio risparmio di acqua, se ne risparmia oltre il 95% rispetto all'agricoltura intensiva tradizionale. La sostenibilità si esprime nella totale assenza di pesticidi, nella totale assenza di alterazioni chimiche della pianta, perché non c'è bisogno, la pianta cresce in un ambiente protetto, quindi non ha assolutamente bisogno di essere aiutata con qualche agente esterno, magari inquinante. E la sostenibilità si esprime perché questi impianti non rilasciano alcun tipo di inquinante in aria, in acqua o sul terreno, e la sostenibilità si esprime anche perché si risparmia moltissimo terreno coltivabile. Qual è la produttività? Ma un metro quadro di questi impianti produce anche centinaia di volte quello che si produce in un campo, per cui è automatico che lo spazio che ci serve occupare a terra è una frazione, un centesimo, possiamo dire per semplicità, di quello che si usa in agricoltura tradizionale e un ventesimo di quello che si usa in una serra. E di conseguenza anche di collocare questi impianti all'interno di spazi industriali che possono essere recuperati. Come funziona, diciamo, un ciclo produttivo all'interno di un impianto come questo? Questo tipo di agricoltura si può applicare a tante coltivazioni differenti che possono essere destinate sicuramente al mercato più ovvio, però se ne possono immaginare applicazioni anche molto diverse che vanno verso il mondo farmaceutico, il mondo nutraceutico. Non è detto che in una vertical farm si coltivi solo un prodotto per mangiarlo, si coltiva escludendo completamente la presenza di suolo, si coltiva nel nostro caso in maniera aeroponica, quindi nebulizzando direttamente sulle radici delle piante la proporzione esatta dei nutrienti che servono alla pianta, si coltiva con luce artificiale, utilizzando dei LED a quella che noi chiamiamo ricetta luminosa, solo con quelle lunghezze d'onda che la pianta utilizza per esprimere il meglio del suo potenziale organolettico. Per noi è fondamentale spiegare che questo non è un impianto di coltivazione, questa è una filiera integrata che parte proprio dal seme e arriva al prodotto finito. Che frumento, che varietà e come coltivarlo per fare buon pane, dicendo anche che il panettiere che deve saper lavorare farine diverse. A dircelo oggi è Cristina Micheloni nella sua rubrica. Il tempo della semina del frumento si avvicina e con esso la necessità di decidere che cosa seminare, per che destinazione e mercati e di conseguenza come agire dal punto di vista agronomico. Da un lato la produzione per uso panificabile è interessante per il maggior valore economico, dall'altra la consapevolezza che i nostri areali non sono particolarmente generosi su queste tipologie di colture e la necessità di essere assai più precisi sia nella gestione della coltura che nella raccolta che nel post raccolta. Ma veniamo nella pratica, che cosa può scegliere di seminare un bravo agricoltore biologico friulano? Prima cosa le varietà standard, sempre ricordandosi di verificare la disponibilità di semente bio o in caso contrario di semente non trattata. Fondamentale l'esperienza pregressa specifica sul territorio, ovvero considerate come sono andati gli scorsi anni queste varietà nella vostra azienda ma anche nelle aziende vicine, nella consapevolezza che le varietà più moderne non sono state selezionate per sistemi agricoli biologici, quindi hanno esigenze nutrizionali, azoto ma non solo, e sensibilità verso patogeni e parassiti che ne rendono non semplice la coltivazione in bio. Seconda opzione, varietà recenti ma selezionate per la tolleranza ad alcuni patogeni come la ruggine o la carie, interessanti per il bio ma bisogna valutare anche le altre caratteristiche. Terza opzione, le vecchie varietà, termine abusatissimo che è diventato quasi solo uno slogan commerciale. Comunque parliamo di cose come il Gentilrosso, Autonomia B o altre varietà che hanno un secolo e più di storia, che sono comunque geneticamente identificabili e come tali vanno conosciute e moltiplicate. Anche se sono antiche non significa che vadano bene ovunque e che si adattino a qualunque cosa. Quarta opzione, il gruppo più innovativo, detto materiale eterogeneo, perché non è una varietà, ma una popolazione, un insieme di incroci talvolta anche molto complessi. L'essenziale è che mantenga molta diversità al proprio interno, cosa che ne permette l'evoluzione alle condizioni locali e quindi di adattarsi al luogo di coltivazione, ai metodi e anche al clima che cambia. C'è poi la questione delle proteine. Fare proteine in bio, essenziali per la qualità panificatoria, è un po' più difficile che in convenzionale, o meglio, si deve lavorare di prevenzione, quindi arrivare alla semina del frumento con un terreno già fertile grazie alle colture precedenti, sovesce inclusi, e usare la fertilizzazione alla semina e in copertura solo come tocco finale, come l'ultima aggiustatina. Insomma, non pensate di risolvere tutta la questione con i pellettati alla semina in copertura. Un'altra considerazione molto biologica, ma è la pianta del frumento che deve adattarsi alle esigenze del panettiere o è il panettiere che, se è bravo, sa adeguare la propria arte bianca alla farina che si trova tra le mani e che, come è naturale, cambia di anno in anno e di zona in zona. Per qualche altro ragionamento su epoca di semina e densità di seme, andate a guardare il link che vi lascio alla pagina Facebook. Continua il viaggio di vita nei campi all'interno dell'Ateneo di Udine nel segmento del trasferimento tecnologico tra il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali e il mondo dei campi, il mondo dell'agricoltura. Viaggio che oggi continua con il professor Edi Piesentier, che da pochissimi giorni è il nuovo direttore del Dipartimento. Quali i progetti? Per il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali, il trasferimento di conoscenza e competenze a favore del territorio, del mondo agricolo e agroindustriale è un compito istitutivo, costitutivo. Abbiamo a questo proposito già degli strumenti attivi, che sono ad esempio la banca del germoplasma autoctono vegetale, che è dedicata alla tutela delle risorse fitogenetiche della nostra regione, il laboratorio apistico regionale, il centro di ricerca e coordinamento per la cura e il recupero della fauna selvatica e poi il laboratorio di analisi sensoriale, l'ABS, appena insediato nel Lab Village universitario, dove entro l'anno sarà insediato anche il LARA, il laboratorio di ricerca agroalimentare alimentare. Ovviamente qui si parla di ricerca applicata. Una parte importante dell'attività di ricerca nel nostro dipartimento è ricerca applicata, che grazie alle competenze appunto dei 120 ricercatori che lavorano nel nostro dipartimento spazia in gran parte dei settori e dei campi dell'agroalimentare e dell'ambiente. Noi adesso stiamo costituendo una piattaforma che è dedicata proprio al rilevamento di queste attività, affinché possano essere quantificati i loro impatti in termini di indicatori di attività e misuratori appunto di impatto. Progetti a breve termine e con che interlocutori? A parte questa piattaforma, quello che vogliamo anche fare è anche costituire proprio un giorno, un open day, un evento pubblico nel quale raccoglierci e confrontarci appunto con le aziende che hanno collaborato con noi, ad esempio anche per i tirocini in azienda degli studenti, e che rappresenta un'altra importante attività di interazione con il territorio. E poi c'è un'altra novità di questi giorni proprio, ed è questa possibilità di reclutare giovani dottorati e ricercatori. Per il nostro dipartimento abbiamo avuto l'approvazione di 6 posti di dottorato e 5 posti di ricercatore, i quali devono svolgere la loro attività di ricerca anche nelle aziende. È una novità molto importante, e quindi ad esempio uno di questi sarà gli approcci genetici per la sostenibilità del vigneto, che sarà svolto in collaborazione con i vivai cooperativi di Rauscedo, continuando quindi con loro quel programma di attività di terza missione che abbiamo iniziato con le varietà resistenti. Dopo la pigiatura, altro momento importante in cantina è quello della pressatura. Ce ne parla per la rubrica della vite del vino il professor Roberto Zironi. Dopo il raffreddamento, le uve intero e il pigiato vengono destinate, secondo l'obiettivo enologico, alle due filiere principali di vinificazione, quella con macerazione o quella senza macerazione. Nel caso della macerazione, il prodotto è inviato in serbatoi attrezzati a gestire nel migliore dei modi queste operazioni, indispensabile all'estrazione dei componenti utili dalle bucce, ma di questo parleremo successivamente. Concentriamo ora l'attenzione sulla vinificazione in bianco, che prevede quindi la separazione della frazione liquida dalla massa pigiata e dalle uve ancora integre. Per effettuare l'operazione si utilizzano delle macchine particolari chiamate torchi, che sono certamente le prime utilizzate nella filiera analogica sin dal 1800 a.C. e per tanto tempo è risultata ancora l'unica, visto che soltanto nel secolo scorso si sono affacciate altre attrezzature meccanizzate per il trattamento dei mostri dei vini. Così come nelle attrezzature più antiche, l'estrazione del succo avviene in gabbie che contengono le uve e che vengono pressate da un piatto premente mosso da un pistone idraulico ad alta pressione. L'uva così pressata rilascia il succo che percola attraverso le doghe, che costituiscono la gabbia di contenimento, su di un recipiente di raccolta. E chiaramente, di sviluppo più recente, abbiamo delle attrezzature che, presentando sempre una gabbia, prevedono che la pressatura venga attraverso una membrana in materiale tossico che è contenuta nel cilindro della pressa, e l'uva viene spinta verso la parete del cilindro stesso. Esistono poi delle presse ancora più moderne che operano con gabbie chiuse, e quindi è possibile avere un'azione, diciamo, di estrazione del succo anche in atmosfere modificate per rispettare al massimo le caratteristiche del succo stesso. Da un punto di vista operativo si può effettuare una pressatura senza pigiatura, quindi con uve intere, per casi particolari, ad esempio classico l'ottenimento di succhi non colorati da uve colorate, quindi per produrre delle basi spumanti bianche. In questo caso il tempo con la parte solida è ridotta ai minimi termini e quindi non c'è contaminazione. Si può effettuare una pressatura dopo pigiatura. In questo caso l'uva pigiata è posta all'interno di queste gabbie, qui abbiamo una minima macerazione e quindi il risultato è esattamente simile a quello visto precedentemente, ma con delle velocità sicuramente maggiori. Infine, nelle cantine di grosse dimensioni abbiamo dei sistemi continui che oltre alla pigiatura effettuano una sgrondo pressatura per aumentare quindi notevolmente le rese di produzione e quindi con qualità che possono essere leggermente minori, ma con un notevole miglioramento in termini di abbattimento dei costi di produzione. A Anche il mese di ottobre è importantissimo per le coltivazioni in orto, come ci spiega Sara Bosco. Nella nostra regione, il mese di ottobre rappresenta un buon periodo per la messa a dimora di svariati ortaggi, oltre che alla raccolta di molte colture che appartengono sia al periodo estivo che a quello autunnale e invernale. Per quanto riguarda le semine, ci sono due tipi di colture che possono essere messe in campo. Da un lato quella rapido sviluppo, come insalate, spinaci, rape, dall'altro quelle che sono in grado di superare l'inverno perché resistenti al freddo delle nostre zone. Tra questi ultimi troviamo aglio, cipolla, piselli, fave, ma anche il radicchio. Oltre alla semina possono essere trapiantate sia queste colture appena citate che altre come cavolfiori, broccoli, bieta da costa, nonostante debbano avere però un ciclo di sviluppo precoce, altrimenti si incorre nelle basse temperature che spesso, nemmeno con la protezione del tessuto o no tessuto, non permettono di salvare il raccolto. Nel caso dell'orto invece sul balcone c'è una maggior capacità di proteggere queste piantine. Stessa cosa vale nel caso di tunnel freddi che aiutano a mantenere all'interno una temperatura che è più adatta allo sviluppo delle colture. Come raccolti in questo mese troviamo gli ultimi pomodori, peperoni, melanzane, zucchine, cetrioli, tutte colture strettamente estive, in particolare per coloro che sono dotati di tunnel freddi, in quanto all'esterno queste piante iniziano a degradarsi lentamente. Si inizia anche la raccolta di molte brassiche, tra cui cavolfiori, cavolo cappuccio, broccoli, cime di rapa, ma anche di varie tipologie di radicchio, le lattughe, la bieta da costa, cicoria, le rape dal coletto viola, le classiche che vengono impiegate nella nostra regione per la preparazione della brovada. Una pietanza che non ammette mezze misure, o la si ama oppure si odia. Sono le trippe argomento nell'intervento di oggi di Roberto Zottar. Per me quattro quarti rappresentavano l'unità, almeno fino a quando a Roma ho scoperto il quinto quarto, cioè il nome collettivo che raggruppa tutto ciò che dell'animale non fa parte dei quattro tagli nobili, anteriori e posteriori, ossia frattaglia interiora e ogni scarto che sia commestibile dalla punta del muso alla coda. La cucina del quinto quarto è famosa a Roma all'ombra del mattatoio di Testaccio, dove i cosiddetti vaccinari o scortichini avevano il compito di scuoiare i bovini e venivano pagati in natura, ossia col quinto quarto, e le mogli usavano questi ingredienti apparentemente poco appetibili per creare succulenti piatti. Una volta questi tagli erano fonte di proteine enormi per i meno abbienti, ma l'attuale ritorno alla cucina povera che imperversa nel mondo del food ha fatto sì che anche i ristoranti più blasonati abbiano ripreso a raccontarli e a proporli. Ecco allora la ribalta, la finanziera piemontese, il lampredotto fiorentino, la pagliata e la coda alla vaccinaria romane e il pane cameusa palermitano. Il famoso detto «non c'è trippa per i gatti» è del sindaco di Roma Ernesto Nathan, che ai primi del Novecento eliminò dal bilancio la spesa per il mantenimento di una colonia di gatti randagi. Dal quinto quarto le trippe vantano diversi appassionati anche in Friuli. Alcuni aromi dell'orto, una lunga e lenta cottura e il piatto fumante servito. Per le trippe i sentimenti di mezzo non si provano. Si amano oppure si odiano. Nella tradizione prettamente friulana, dato che il bovino era animale prezioso per il lavoro e il latte, veniva utilizzata anche la trippa di suino, essendo il maiale il vero scrigno alimentare della famiglia. La formula più frequente era quella in zuppa, ovvero le sopis, una consuetudine oggi dimenticata se non ci fosse una canzone d'osteria a ricordarcelo ogni tanto. Sopis non son tripis e tripis non son sopis. Seguendo Gianni Cosetti, lessate trippe fresche di vitello con carota, sedano, cipolla steccata all'oro per un'ora e mezza e da fredde tagliatele poi a striscioline. Soffriggetele quindi in olio con cipolla, aglio, un po' di sedano rapa e carota ben tritati, sale e pepe rosolate per 20 minuti, sfumate con vino bianco e brodo e cucinate per altri 20 minuti. Servite con un trito di prezzemolo e parmigiano grattugiato. Per ottenere la zuppa a un mestolo di queste trippe aggiungete 2 di brodo e servite con crostini di pane abbrustoliti profumati d'aglio. La maggiorana si accompagna bene con le trippe e se andate in osteria ordinate secondo tradizione miesa di golas e miesa di trippis. Buon appetito! E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Mercato attivo, con prezzi in aumento venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 27 e 27,20 euro al quintale IVA esclusa. L'orzo, peso specifico 62,65, tra 24,10 e 24,50. Il frumento tra 26,50 e 27 euro. E la soia tra 57,50 e 58 euro al quintale. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 10,50 euro, il frumento di 8,30 euro e la soia di 20 euro il quintale. Passando ai bovini da macello è proseguito il buon andamento delle quotazioni, con le vacche fine carriera di prima qualità che vengono pagate a peso morto tra 2,70 e 3 euro il chilo IVA esclusa, quelle di seconda tra 1,90 e 2,60. Mercato in movimento nel settore dei vitelli da ristallo, con prezzi stabili. Le quotazioni accertano che i blubelga maschi vengono pagati tra 6,20 e 6,70 euro il chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,70 e 5,10, i frisoni tra 1,70 e 2 euro e i bruni tra 1,50 e 1,70. Nel comparto suinicolo si evidenzia ancora una leggera flessione delle quotazioni. I lattonzoli di 30 kg vengono pagati franco partenza a 2,25 euro il chilo IVA esclusa, mentre i grassi da macello vengono quotati a 1,49 il chilo. Miglioramento invece per il prezzo del latte crudo di vacca franco stalla di origine del Friuli Venezia Giulia, dove la commissione camerale di Pordenone e Udine lo ha quotato tra 37,50 e 38,50 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Mercato stabile nel settore dei foraggi, il fieno Mazengo di pianura viene quotato da 11 a 11,50 euro il quintale IVA esclusa, l'erba medica di prima qualità tra 17 e 17,50, mentre la quotazione della paglia di cereali pressata di stagione oscilla tra 9 e 9,50 euro il quintale. E con il previsore dell'Osmer Livio Stefanuto diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. Dopo un settembre praticamente estivo, con l'inizio di ottobre ci siamo trovati in pieno autunno. Il progressivo penetrare delle correnti miti umide di Scirocco dall'Adriatico verso i monti ha portato piogge dapprima il 3 sulla costa, ma soprattutto il giorno dopo. Sulla pianura udinese si sono registrati cumulati superiori ai 150 mm sulla fascia tra Mortegliano, Udine e Civitale in sole 12 ore e vento raro per la zona. Precipitazioni anche su altre zone della regione, ma con quantitativi ben inferiori. Il giorno successivo tocca i monti. Sulle Prealpi Carniche fino a Tolmezzo sono caduti dai 100 ai 200 mm. Poi una depressione atlantica il 6 ha determinato piogge e temporali, in particolare sulla costa. Tra Fossalon di Grado e Monfalcone sono caduti un centinaio di millimetri, mentre sulle vette alpine è scesa la prima neve della stagione. Va detto comunque che in alcune zone in tutto il periodo è piovuto ben poco, con cumulati dell'ordine di 10-20 mm, come nella fascia di bassa pianura tra la Tisana e Cervignano. Tra il 7 e l'8 ottobre, con cielo coperto e qualche debole pioggia, la protagonista è la bora, che a Trieste ha soffiato con raffiche sui 100 km all'ora. Da ieri è tornato il sereno, ma il vento permane fresco e in quota fa piuttosto freddo per la stagione. Da oggi pomeriggio una depressione tenderà ad approfondirsi sul medio Adriatico, richiamando sulla regione correnti orientali umide in quota. Nella notte e nel primo mattino di domani sarà possibile qualche debole pioggia sparsa, più probabile sulla costa e zone orientali, con neve sulle Giulie oltre i 1200 metri circa. In giornata nuvolosità variabile con miglioramento dal pomeriggio. Al mattino sulla costa soffrirà ancora bora moderata, in quota vento freddo da nord-est, in calo nel corso della giornata. Tra martedì e mercoledì l'Italia sarà stretta tra l'anticiclone atlantico ed una depressione sull'est Europa. Le correnti si disporranno da nord, ma saranno piuttosto umide. Quindi martedì e mercoledì avremo cielo in genere variabile con la possibilità di qualche rovescio in montagna, ma rimarremo essenzialmente protetti dalle Alpi. Da giovedì, al fine settimana, rimarremo sotto lo scudo anticiclonico, con tempo stabile e asciutto e venti deboli di brezza fino a sabato. Farà via via più fresco, con massime in pianura non superiori ai 17 gradi e di notte non si esclude del tutto qualche locale gelata. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. Ai 12 alle San Serafin, chiastinis e un buon boccal di vin, ovvero il 12 ricorre San Serafino, tempo di castagne e un boccale di vino. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato?